Il punto di Stefano Folli. Il fatto che non ci siano conseguenze dirette per la pronuncia della Consulta sul processo Mediaset avversa Berlusconi e la tenuta del governo non significa che il Presidente del Consiglio possa dormire tranquillo. Il partito berlusconiano non può stabilire un nesso fra i due piani perché finirebbe per danneggiare in modo irreversibile il suo leader in vista della sentenza di Cassazione nel prossimo autunno. Tuttavia, può rendere ancora più tribolato il sentiero di Enrico Letta sull'IVA, l'IMU e gli altri cavalli di battaglia del centrodestra, perché è vero che Berlusconi si attende un aiuto dalle istituzioni. Si aspetta che in qualche forma, assai difficile da individuare, gli sia evitata la condanna definitiva per Mediaset, o per scelta dei supremi magistrati o attraverso altre strade. Quindi si cammina sull'orlo del precipizio, sperando di non caderci dentro anzitempo.